costantemente situazioni imbarazzanti e puntualmente provo a mettermi da parte. Devo smettere di credere che i mille sogni erotici che faccio poi li viva veramente. Scusami se spesso penso al sesso come un gesto dolce e forte per guarire ogni ferita. E poi stasera ho speso uno stipendio per riempire il mio bicchiere e non ritornare da te. Le barzellette non fanno per me, soprattutto in macchina alle tre. Non sono capace a stare sereno e aspettare che i momenti vengano da soli in modo sincero. Ti ho detto che il sole alle sei visto dalla mia finestra è proprio carino e le tisane qui hanno un altro sapore. Da me il tramonto è migliore che dalla tua bolla. Il colmo della mia generazione è voler tutto adesso pronto, più efficace, più veloce. Ma se lentamente osservo i tuoi capelli sciolti, ascolto la tua voce. Non vorrei più niente in fretta, aspetterei minuti e ore. Ma poi l'ansia dice tutto al posto mio, lo vedi dai messaggi che ti invio. Non sono capace a stare sereno e aspettare che i momenti vengano da soli in modo sincero. Ti ho detto che il sole alle sei